e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia con Deborah Rosciani. Benvenuti a Focus Economia, la trasmissione durante la quale vi raccontiamo quelle che sono state e quelle che sono le principali notizie economico-finanziarie della giornata. Giornata piuttosto importante, perché naturalmente ancora guardiamo con molta apprensione, una sorta di fiato sospeso alle condizioni della Grecia. Come sapete, appunto, oggi era in programma questa riunione dell'Eurogruppo che poi, come hanno raccontato alcuni colleghi della carta stampata, è stata declassata a semplice conference call, quindi una teleconferenza praticamente fra i ministri finanziari dell'Eurozona, proprio per valutare e dare il via libera più o meno formale all'erogazione di questo nuovo pacchetto di aiuti appunto alla Grecia, soldi che servono per pagare le prossime scadenze, a partire dalle prestito obbligazionari appunto in scadenza a fine marzo, 14 miliardi e mezzo di euro. Complessivamente però il pacchetto di aiuti vale tra i 130 e i 140 miliardi di euro. Oggi ci sono state nuove promesse formali inviate appunto da parte dei partiti greci all'Unione Europea, perché di questo denaro c'è bisogno, e nelle ultime ore qualche tensione si è tornata a manifestare in borsa, perché naturalmente c'è un continuo andirivieni di notizie. Questa borsa che stamattina sembrava voler brindare all'arrivo delle definitive decisioni sulla Grecia, e poi nella seconda parte della giornata invece il rallentamento molto netto per i listini del vecchio continente, anche per Wall Street, che in questo momento è negativa. Gli operatori, ho visto che attribuiscono questo rallentamento del passo delle contrattazioni in Europa fondamentalmente ad alcuni dati economici americani che sono risultati inferiori alle attese, ma di fatto ancora una schiarita definitiva greca non c'è, e come avete sentito la notizia dell'ultima ora è quella che si riferisce agli aiuti che potrebbero slittare addirittura ad aprile, cioè dopo le elezioni. Questo è quanto si apprende da alcune fonti dell'Unione Europea vicine appunto alla vicenda, lo ha scritto l'ANSA poco fa. Questo è uno dei temi dei quali naturalmente parleremo. Ritorneremo ad Atene con l'inviato delle Sole 24 Ore, poi ci occuperemo anche di fatti italiani che comunque si incrociano inevitabilmente da molto tempo a questa parte con le vicende anche di Bruxelles, perché oggi Mario Monti, lo avete sentito anche nel giornale radio, ha parlato all'Europarlamento riscuotendo molto consenso per le sue dichiarazioni, che su certi passaggi sono state anche molto forti, perché ha detto c'è un rischio serio di disgregazione dell'Europa, e ha in qualche maniera anche un po' confermato quelle che sono indiscrezioni del Financial Times pubblicate oggi, secondo le quali ci sono alcuni paesi dell'Eurozona che premono molto chiaramente per l'uscita della Grecia appunto dall'Unione Monetaria Europea. Parleremo poi dell'incontro anche che si è svolto oggi, molto atteso, anche qui si va avanti chiaramente molto lentamente perché il tema è estremamente delicato, l'incontro tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. Una prossima riunione è stata rinviata appunto a lunedì per affrontare il capitolo degli ammortizzatori sociali. Dovete accontentarvi stasera anche di una conduttrice malaticcia, oltre che non esserci quello ufficiale, la conduttrice sostitutiva è anche a metà servizio. Detto questo, parleremo poi come tema di apertura del dato sul prodotto interno lordo italiano. Per l'ultimo trimestre dell'anno un dato negativo, si certifica quindi la recessione tecnica per quello che riguarda il nostro paese, ma faremo anche così un punto della situazione europea, perché oggi sono stati divulgati i dati sul PIL di tutte le principali economie europee, anche il dato complessivo appunto dell'Eurozona. La statistica è stata formulata da Eurostat, le condizioni sono piuttosto critiche per quello che riguarda l'Europa, lo sapevamo, ma con un economista cercheremo di capire se si tratta di cifre migliori o peggiori di quello che ci aspettavamo, e soprattutto cercheremo di capire come si farà ad uscire da questa situazione. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi se volete interagire con noi oggi e commentare i fatti del giorno. Adesso le notizie in breve. E se qualche ascoltatore naturalmente mi ricorda anche di sbrigarmi a chiudere la trasmissione come sempre alle 18.30, che poi chiaramente ci sono le partite e molti di voi vorranno spostare l'attenzione dall'economia allo sport. Allora cominciamo con le notizie della giornata Partendo come sempre dalle materie prime, l'oro naviga oggi intorno ai 1726 dollari l'oncia, mentre per quello che riguarda il petrolio, a New York l'apertura è stata 101,60 dollari al barile. Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia riportata dalla TV di Stato, secondo cui Teheran ha tagliato le esportazioni di petrolio a 6 paesi europei, inclusa l'Italia, in reazione alle ultime sanzioni europee appunto a Teheran. Lo ha riferito l'ambasciata d'Italia all'ANSA, a breve dovrebbe giungere anche una smentita ufficiale dello stesso Ministero. I dati americani che oggi hanno disturbato la borsa, almeno nella seconda parte della giornata. Il dato a cui ci si riferisce è stato quello relativo alla produzione industriale americana, che a gennaio è rimasta invariata dopo il più 1% di dicembre. Le stime erano per un rialzo dello 0,7%. La capacità di utilizzazione degli impianti produttivi americani è salita però al 78,5%. Panoramica greca, prima dell'approfondimento della seconda parte della trasmissione. Un portavoce della Commissione europea oggi ha detto che il default della Grecia avrebbe conseguenze devastanti, soprattutto per la popolazione, e il suo impatto è stato quantificato da accurate analisi economiche che però al momento la Commissione europea non può ancora rendere pubbliche. Vogliamo che la Grecia resti nell'eurozona, ma la solidarietà non può essere una strada a senso unico, quindi è normale che i partner dell'euro si aspettino che Atene rispetti gli impegni, ha detto ancora questa Commissione europea, questo portavoce della Commissione europea. E queste dichiarazioni appunto sono arrivate proprio a commento delle voci secondo cui, come vi dicevamo prima, Germania, Olanda e Finlandia sarebbero orientate addirittura a far fallire appunto la Grecia stessa. E ancora questo portavoce: vi sono parecchi passaggi tecnici, ha detto, ancora da fare prima di mettere in sicurezza la Grecia, perché l'accordo con i creditori privati richiede tempo per essere applicato, il tempo sta scadendo. Però questo accordo fra lo Stato greco e i creditori privati è stato fatto, ma non sta ad una banca commerciale rivelarne i dettagli. Queste indiscrezioni sono arrivate oggi da Parigi e le avrebbe appunto formulate l'amministratore delegato del gruppo bancario francese BNP Paribas Bonafè durante la presentazione dei risultati annuali. D'altronde è BNP Paribas tutto l'interesse affinché a questo accordo si arrivi, anche perché la banca francese oggi ha fatto sapere di aver aumentato i suoi accantonamenti per le perdite legate alla ristrutturazione del debito greco. Si parla di qualcosa come quasi 3 miliardi e mezzo di euro, pari al 75% del valore delle obbligazioni greche detenute. L'impatto delle perdite sul debito greco pesa fortemente sui risultati del gruppo francese, che nel 2011 ha visto il suo utile diminuire di quasi il 23% a circa 6 miliardi di euro. Dichiarazione del ministro delle finanze tedesco Schäuble, che cita l'Italia unita attorno al governo Monti negli sforzi contro la crisi come esempio per seguire Atene. In un'intervista alla radio tedesca, Schäuble ha sottolineato i progressi fatti sotto il governo Monti e ha detto: si dovrebbe davvero pensare di fare come l'Italia. E intanto però tutto questo consenso intorno a Monti oggi non è bastato a far ritornare un pochino di nervosismo sul mercato obbligazionario, perché lo spread fra BTP e Bund è risalito di nuovo ed è tornato a 380 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano al 5,66%. Andiamo alle dichiarazioni di Monti oggi rilasciate alla plenaria di Strasburgo, al Parlamento europeo. Vi do le più importanti, le più forti. L'euro è stato il perfezionamento più ambizioso della costruzione comunitaria. Tutto possiamo permettere, meno che diventi un fattore di disgregazione, ma, ha detto, questo rischio c'è. La crisi dell'eurozona ha fatto nascere troppi risentimenti, rinascere stereotipi e divisioni fra paesi centrali e periferici. Credo, spero che la soluzione della crisi sia a portata di mano, ha detto Monti. Il rischio principale in questa fase, ha poi ricordato, è che questa crisi diventi fattore di disgregazione europea, un rischio che esiste. E infine, in Unione Europea non esistono buoni e cattivi, dobbiamo sentirci tutti corresponsabili delle cose fatte del passato e soprattutto nella costruzione dell'avvenire. Io sono il rappresentante di uno Stato considerato geograficamente periferico. Allo stesso tempo ho da osservare che stati centrali, a cominciare dalle due maggiori economie dell'Eurozona, la Germania e la Francia, sono stati all'origine della crisi del patto di stabilità e di crescita e della sua limitata credibilità nel 2003, quando con la complicità dell'Italia, che presiedeva allora il Consiglio Ecofin, quei due paesi hanno preferito esercitare la loro influenza politica sugli altri Stati membri per, in buona sostanza, rompere il meccanismo di enforcement e di applicazione delle regole. Questa è una cosa che oggi viene riconosciuta dai governanti sia di Germania sia di Francia, quindi non sto dicendo niente di sgradevole verso i miei colleghi, cancelliere tedesco e presidente della Repubblica francese, ma è un fatto che un grande vulnus alla credibilità della disciplina di bilancio è venuto dal punto centrale dell'Eurozona, che aveva con grande merito storico istituito e promosso quella disciplina di bilancio. Non possiamo quindi dimenticare che ci sono responsabilità del centro, così come della periferia, perché è vero che diversi stati della periferia, in qualche momento anche quello che qui rappresento, si sono troppo lasciati andare verso l'indisciplina di bilancio. Ma non esistono nell'Unione Europea i buoni e i cattivi. Dobbiamo tutti sentirci corresponsabili sia per le cose fatte in passato, sia soprattutto nella costruzione dell'avvenire. E meno male, insomma, questi applausi a Strasburgo, a Mario Monti. Vi do la sintesi anche delle altre dichiarazioni rilasciate in questo consesso dal Presidente del Consiglio, poi ci ritorneremo nella seconda parte del nostro programma. L'Italia sta portando con crescente intensità la voce della crescita proprio perché si sente la coscienza a posto, ha detto, sul fronte della disciplina di bilancio in Europa. L'Italia è impegnata in una complessa corsa per uscire dall'emergenza, stiamo gradualmente riuscendo a togliere il nostro paese dalla zona d'ombra in cui in qualche momento è stato collocato come fonte, contagio o focolaio della crisi. I sacrifici chiesti agli italiani non sono imposti dall'Europa, ma necessari per il miglioramento della vita economica, sociale e civile degli italiani e nell'interesse dei nostri figli. Sulla questione del no alle Olimpiadi di Roma, anche su questo punto Mario Monti è intervenuto, ha dovuto prendere una decisione difficile, ha detto, dicendo no ad un magnifico progetto per portare a Roma le Olimpiadi, ma c'è stata molta delusione, ma l'impressione è che l'opinione pubblica abbia capito. Lasciamo Monti, andiamo adesso ad altre cifre diffuse oggi. Il debito pubblico italiano a dicembre 2011 è sceso dai 1904,8 miliardi di novembre a 1897, sceso sotto la soglia dei 1900 miliardi appunto. Lo ha fatto sapere la Banca d'Italia, che oggi ha pubblicato il supplemento al bollettino statistico dedicato appunto alla finanza pubblica. Il debito pubblico italiano a dicembre 2011 è comunque cresciuto di 55 miliardi rispetto alla fine dell'anno precedente e l'incremento è stato di quasi il 3%. E sempre sulla base appunto di questa pubblicazione della Banca d'Italia, si attesterebbe fra il 119,5 e il 120% il rapporto fra il debito pubblico a dicembre 2011 e il PIL dell'Italia. E ha anche detto Banca Italia, le entrate tributarie nel 2011 sono aumentate dell'1,6% e si sono attestate a quota 403,110 miliardi di euro. Adesso ci fermiamo, andiamo all'altra rubrica molto veloce che vi diverte sempre molto. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E sì, ci divertiamo a cercare anche qualche notizia che in qualche maniera, pur non essendo sempre particolarmente confortante, perché di buone notizie, divertenti, fresche, insomma, in questo momento un po' difficile si fa fatica anche a trovarne, ma ci siamo impegnati anche oggi. E allora, 500 lire, vasellame e posate d'argento, gli italiani svuotano i cassetti per monetizzare. Lo specchio della crisi, dice il rapporto Italia 2012 stilato dall'Eurispes, è anche nel proliferare dei compro oro. Restrizione dell'accesso al prestito bancario e fiducia ai minimi storici verso gli istituti di credito ingrossano le forme di prestito informale. Allora, Eurispes ha naturalmente intervistato un campione di persone. L'8,5% degli intervistati dichiara di essersi rivolto nell'ultimo anno a negozi che comprano metalli preziosi per ottenere un po' di liquidità. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Se poi i negozianti sanno condire il bisogno economico dei clienti con una buona dose di marketing, ecco che cosa si può assistere: a performance di assalto all'ultima offerta, che in realtà ultima non è. Guarda il caso delle 500 lire d'argento immesse in quantità industriale fra gli anni 50 e 60, ce ne sono in giro centinaia di milioni, e con oltre 9 grammi di metallo vengono valutate fra 4 e 5 euro l'una. Complice forse il pensionamento definitivo della lira e la scarsa conoscenza della materia, ad alcuni sembra che poter vendere quelle monete a quel prezzo sia un'opportunità esclusiva. In realtà è una normale pratica commerciale che gli esercenti sono abili a rinnovare. Intanto, come dicevamo, ma è un tema del quale abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni, continuano ad aumentare i compro oro, qualcuno anche di reputazione e professionalità estremamente dubbia, quindi fate attenzione. Possiamo contare fra i 25 e i 28 mila operatori, inclusi gioiellieri, che svolgono questa attività, e le questure continuano a pullulare di richieste di nuove autorizzazioni. Lo ha spiegato peraltro in un articolo anche sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, Nunzio Ragno, presidente del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Tutela e Compra Oro. All'impennata si assiste da un paio d'anni, ora si è arrivati ad un rapporto di un esercente ogni 6-7 mila abitanti, con Lazio e Campania in testa. Abbiamo terminato le nostre notizie in breve, adesso direi che possiamo andare decisamente al primo approfondimento di oggi. Vabbè, questa mi fa impazzire. Un ascoltatore al 349-238-6666 mi scrive, lei che è malaticcia e sudaticcia, non l'ho detto, ho detto che sono malaticcia oggi, teme forse un contagio dalla Grecia, questa è fantastica. Vabbè, insomma, utilizziamo molto spesso questo termine. C'è un altro ascoltatore che giustamente solleva il fatto che abbiamo raccontato molto rapidamente la borsa, vi dico allora come si stanno comportando gli indici, poi vi daremo la chiusura tra qualche minuto. Milano più 0,25%, è arrivata a guadagnare oltre un punto e mezzo stamattina, poi ha rallentato notevolmente il passo insieme alle altre borse. Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,3, Londra meno 0,10 ed è negativa anche Wall Street. Noi però adesso parliamo della crescita economica italiana, che più che crescita è una decrescita, perché ormai abbiamo certificato, secondo quanto ci ha raccontato l'Istat questa mattina, che il nostro paese è in recessione. L'Italia torna in recessione dopo poco più di 2 anni. L'ultimo periodo di arretramento economico era terminato dopo il secondo trimestre del 2009, al culmine della crisi provocata dall'esplosione della crisi finanziaria dei mutui subprime. Allora, cosa è successo in Italia? Che nel quarto trimestre dello scorso anno il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% su base annua. Quindi il paese complessivamente ha chiuso il 2011 con un PIL in aumento dello 0,4%, in frenata rispetto al più 1,4% dell'anno precedente. Il dato acquisito a questo punto per il 2012 è pari a meno 0,6%. Buonasera Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università di Parma e anche animatore della Voce.info. Professor Daveri, buonasera. Buonasera. Le faccio fare subito il professore, perché ci sono alcuni ascoltatori che ci chiedono che cosa vuol dire affermare, dare questa definizione, cioè che un paese cade in recessione tecnica, perché appunto abbiamo dato questa definizione anche all'Italia. Ecco, ce lo spiega lei. Io abbiamo anche detto, ovviamente in altre circostanze, che si tratta di un meno davanti al PIL per 2 trimestri consecutivi. È esaustiva questa spiegazione, professor Daveri? Sì, perché io non enfatizzerei molto il significato proprio della recessione tecnica, nel senso che quello che conta è se l'economia va bene o va male, e di solito per concludere che va male si aspettano 2 trimestri di diminuzione del PIL. Questa in soldoni è il significato della recessione tecnica. Si va a vedere come è andato il PIL destagionalizzato, cioè depurato dalle influenze del fatto che, non so, in un trimestre c'è Natale, in un altro c'è Pasqua, si tirano via queste influenze temporanee sull'andamento delle vendite in modo da ottenere una specie di PIL normale al netto di questi effetti, e l'Istat calcola se è andato su e se è andato giù. Per questo può dire che se è diminuito rispetto al trimestre precedente l'economia va male, e se lo fa per 2 volte di fila a quel punto si parla di recessione tecnica. Per valutare però se un paese è in recessione, in realtà i ragionamenti che si devono fare riguardano un insieme di variabili un po' più ampio, che non semplicemente il PIL, bisogna guardare anche le vendite al dettaglio, bisogna guardare come va l'occupazione, e purtroppo un po' da tutti questi indicatori si arriva alla stessa conclusione e ci si arrivava anche prima di oggi, insomma. Non è una gran bella consolazione, ma in ogni caso in Europa non siamo i soli, siamo insieme alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, al Belgio, all'Olanda. Per la Grecia pensate che siamo a meno 7%, leggevo questa mattina, non mi ricordavo che addirittura il paese fosse in questa condizione. Vittorio Darold, che è l'inviato appunto da Atene per il Sole 24 ore, ricorda che per la Grecia il 2011 è stato il quinto anno consecutivo di recessione. Le va anche bene che si trova in questa condizione adesso, perché 5 anni neri così è davvero una condizione dura da sopportare e da superare. E allora, professor Daveri, lei già ha fatto il commento sul sito della Voce rispetto ai dati diffusi di questa mattina, sia per quello che riguarda l'Italia che per gli altri paesi, e poi c'è anche il dato di Eurostat complessivo che indica un meno 0,3% per l'area euro e per l'Unione Europea a 27 nel quarto trimestre del 2011. Ci sono state delle sorprese in queste statistiche di stamane, secondo lei? Ma no, insomma, tutto sommato era quello che ci si aspettava. Purtroppo noi non siamo in una gran compagnia di giro, insomma, per quanto riguarda la crescita del PIL. Gli altri paesi che vanno male sono quelli che sono stati un po' nell'occhio del ciclone degli ultimi mesi, soprattutto dopo l'estate, per quanto riguarda la crisi dei debiti sovrani. Quindi di fatto quello che è successo è che un po' tutta l'Europa, e tra l'altro anche l'area non euro, ha subito la crisi di confidenza che ha subito l'euro nel suo complesso, però c'è qualche paese che l'ha subita di più, e quelli che l'hanno subita di più, con l'eccezione appunto di Belgio e Olanda, sono i paesi che una volta venivano chiamati PIGS, insomma, i paesi dell'Europa mediterranea, insomma. Belgio e Olanda sì, sono dei dati che un po' hanno stupito, tenuto conto però che la Germania ha rallentato bruscamente rispetto al passato, perché la Germania ha fatto registrare un meno 0,2, e però insomma viene da un anno che è stato un anno ancora una volta di che l'ha messa sugli allori, quindi un rallentamento della Germania, insomma uno starnuto a Berlino è un raffreddore e qualcosa di più a Bruxelles e anche ad Amsterdam, e quindi così si spiega il dato di Belgio e Olanda. Professor Daveri, la metto a confronto il suo commento che ha rilasciato appunto per lavoce.info, perché il commento a questi dati si intitola "La Caporetto della crescita e i due Mario sul Piave", con le dichiarazioni di Corrado Passera, il ministro dello sviluppo economico, che ha detto "siamo in forte recessione". Questo dato di questa mattina per quello che riguarda l'Italia indica una recessione molto forte? Beh, meno 0,7 è il dato peggiore se escludiamo la Grecia tra tutti i paesi europei, quindi indubbiamente ci segnala che è un dato fortemente negativo. Non conosciamo ancora, perché è una stima ancora preliminare, quindi possiamo sperare che magari l'Istat abbia fatto qualche errore di valutazione del campionamento, possiamo attaccarci anche a questo, però insomma in realtà il problema è che già da vari mesi che ci sono indicazioni pesanti di non semplicemente di rallentamento, ma proprio di arretramento dell'attività economica. Se pensiamo al livello delle vendite al dettaglio, che sono più o meno al livello del 2005, ecco, questo ci dà l'idea che le cose non stanno andando assolutamente bene, anche se in realtà l'andamento dell'economia italiana è un po' a due facce a seconda se guardiamo gli esportatori e quelli che sono le aziende che invece sono attive soprattutto sul mercato interno. Chi è attivo sul mercato interno paga il costo della crisi dei debiti sovrani, il pessimismo dei consumatori e anche delle aziende, invece chi opera sull'estero, almeno una parte di chi opera sull'estero, riesce a far segnare ancora dei risultati positivi. Chi è riuscito a diversificare a livello appunto internazionale il business ha compensato sicuramente il crollo della domanda italiana. Professor Daveri, un'ultima considerazione, lei naturalmente anche questo riferimento storico sul suo commento lo fa, dopo la Caporetto c'è il Piave, qual è il nostro Piave, basta tutto quello che questo governo sta mettendo in campo? Abbiamo naturalmente più volte commentato i provvedimenti per gestire la fase dell'emergenza, a noi interessa anche il pacchetto che guarda invece la crescita di questo paese. È sufficiente ciò che è stato messo in campo fino a questo momento, quantomeno per ripartire, non tanto per dare una spinta alla crescita di medio o lungo termine, che ne pensa? Il Piave non è Vittorio Veneto, cioè il Piave è il momento in cui durante la prima guerra mondiale si è fermata la disfatta, e quindi questo è quello che ha fatto Monti con il decreto Salva Italia e ha messo le basi per la crescita, ha cominciato a mettere le basi per la crescita con il cosiddetto decreto Crescita Italia, che però deve essere ancora approvato, deve essere precisato in tante misure, quindi non possiamo esagerare l'effetto ottimistico di queste cose, perché tra l'altro genereremmo anche scoraggiamento poi nell'elettorato, quindi questo bisogna stare attenti, insomma, a non farlo. E quindi questi sono gli elementi importanti, il fatto di aver fermato quello che ci portava, era una deriva che ci portava al default. Assieme a questo c'è stato l'intervento però anche dell'altro Mario, quello che sta a Francoforte, che ha inondato di liquidità non semplicemente l'Italia ma un po' tutta l'Europa. Questa liquidità non è ancora arrivata come nelle aziende, come gridano sui giornali e in ogni occasione tutti gli imprenditori, le banche per ora l'hanno usata per mettersi a posto le riserve, però almeno questo vuol dire che pian piano, quando ritornerà un po' di fiducia, perché lo spettro del default sarà stato definitivamente allontanato con le misure prese dal governo Monti, a quel punto le banche non potranno più dire che non hanno i soldi da prestare a chi glieli chiede, le famiglie e le aziende che con maggiore fiducia ritorneranno anche a chiederne di più. Professor Daveri, grazie, buonasera, buon lavoro naturalmente. A voi, buonasera. Barisone in punizione perché ieri ha espresso soddisfazione per il mancato sostegno di Monti alle Olimpiadi a Roma, un altro ascoltatore. Non credo che sia stato solo Sebastiano ad aver espresso questa soddisfazione, perché effettivamente questa mossa di Monti ha riscosso il consenso generale, forse perché proprio del tutto anche in attesa, veramente spiazzato un po' tutti, ma in molti hanno applaudito appunto a questo coraggio di questa decisione. Detto questo, adesso vi faccio sentire un paio di altri commenti sui dati sulla recessione tecnica del nostro paese, i dati che abbiamo dato poco fa, che abbiamo commentato con il professor Francesco Daveri. Nel quarto trimestre appunto dello scorso anno il PIL è diminuito dello 0,7% sul trimestre precedente. Chi è che abbiamo come primo commento? Quello di Emma Marcigaglia, presidente di Confindustria. Siamo in recessione, purtroppo noi lo diciamo da tempo, lo sappiamo, purtroppo torniamo in recessione dopo esserci stati nel 2009 con una crescita molto bassa nel 2010, quindi il problema della crescita è un problema molto serio di questo paese, quindi dobbiamo andare avanti con le riforme proprio che ci danno la possibilità di tornare a crescere. Preoccupata per gli effetti invece di questi dati sull'occupazione, proprio nelle giornate in cui si torna appunto a discutere ed entra nel vivo il confronto con il governo e le altre parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, la leader della CGIL Susanna Camusso, che ascoltiamo al microfono di Alessandra Schepisi. Credo che il fatto che nel 2011 si sia avviata una recessione, che tutte le stime internazionali dicono che nel 2012 il nostro paese sia in recessione, sia un dato purtroppo assolutamente acquisito. Una delle ragioni per cui noi diciamo che non basta riformare le regole del mercato del lavoro, ma bisogna intervenire sulla crescita e sul fisco, è esattamente questo, perché ogni trimestre in più di recessione ci avvita ulteriormente, ci avvita nel meccanismo della disoccupazione. Il tema è come invece si inverte questa tendenza, che non ha degli effetti a breve, ma se non la si mette mai in moto è evidente che rischiamo di avvitarci sempre di più. È la ragione per cui aver fatto finta per 3 anni che non ci fosse la crisi ci ha portato ad essere messi peggio degli altri paesi. Questo invece è il commento del segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che ascoltiamo sempre al microfono di Alessandra Schepisi. Più che contemplare questo dato tremendo, bisogna reagire, ecco perché bisogna reagire attraverso metodologie davvero innovative, ma anche nel saper vedere dove il lavoro italiano soffre di più. E soffre nell'ambito delle flessibilità malate, quelle poco retribuite e poco contribuite. Allora, direi che però per quello che riguarda l'approfondimento sul PIL abbiamo terminato. Adesso è invece giunto il momento di raccontarvi quello che è successo oggi in borsa. Livia Zancaner, Radio Core Il Sole 24 Ore. Livia, buonasera. Buonasera. È da un po' che non ci sentiamo. Sì, infatti. Allora, abbiamo, guarda qua come si sta concludendo la giornata in Europa. Più 0,4 per tutte le borse, però hanno una performance in questo momento identica a Parigi e Francoforte, più 0,44, un po' sotto Milano, più 0,41. Londra finisce in negativo, sta finendo in negativo, a meno che non abbia uno scatto di reni tra qualche istante, meno 0,02. Wall Street è contrastata perché abbiamo il Dow Jones in ribasso dello 0,17%, il Nasdaq guadagna lo 0,81, lo Standard & Poor's, così per non prendere nessuna parte né a favore dell'uno né a favore dell'altro dei due indici precedenti, fa più 0,33%. Milano stamattina dava delle soddisfazioni più ampie agli investitori. Come è successo che poi si è rallentato così il passo, Livia? Sì, allora bisogna dire che tutti i listini europei stamattina guadagnavano terreno e poi hanno limato i guadagni sul finale di seduta, in particolare in attesa dell'esito della riunione dell'Eurogruppo in teleconferenza, che è iniziata da poco. Una riunione dell'Eurogruppo che è improntata sulla Grecia. Vi sono dei nuovi timori, nel senso che vi sono state delle indiscrezioni su un possibile slittamento dell'ok dell'Unione Europea al piano di aiuti, ed è anche per questo probabilmente che la borsa di Atene, che perdeva circa il 3% a metà seduta, ha poi chiuso con un calo del 7% circa. Quindi i timori e i riflettori comunque sono ancora puntati sulla situazione della Grecia, anche se oggi a penalizzare i listini sono stati anche alcuni dati americani risultati sotto le attese. Ha voluto fare il paio la Grecia in borsa con il suo dato sul PIL, adesso sembra una battuta veramente idiota, lo è peraltro, però PIL a fine 2011 greco meno 7% e oggi chiusura per la giornata in borsa a meno 7%. Allora, per fortuna che hanno tenuto molto bene i titoli bancari, ma un più 10,55% per Banca Monte dei Paschi è qualcosa di più ampio in termini di contenuto, di una tenuta. Allora, cosa è successo a Monte dei Paschi? Qua da tempo parliamo delle condizioni della Fondazione Monte dei Paschi, che oggi più o meno è uscita allo scoperto. Su quali intenzioni, Livia? Sì, assolutamente sì. La Fondazione Monte dei Paschi ha infatti deciso di cedere fino ad un massimo del 15% del capitale della banca senese su una partecipazione complessiva del 50% circa, detenuta, anche se comunque l'azionista ha fatto più volte sapere di voler rimanere sopra il 33% della banca. La vendita verrà effettuata, come hanno spiegato in un comunicato, a controparti strategiche, e uno dei possibili interessati è il fondo Equinox guidato da Salvatore Mancuso. Quindi il mercato scommette sul futuro della banca. Benissimo, andiamo all'altro grande performer della giornata, Salvatore Ferragamo, più 8%. Il lusso, devo dire che da sempre delle belle soddisfazioni. Piazza Affari, peccato che poche società siano quotate in questo comparto, appunto non ci sia una grandissima rappresentanza, però insomma su Salvatore Ferragamo che cosa è successo? Sì, allora Salvatore Ferragamo ha guadagnato oltre l'8% e Tozzo oltre il 3%. Bisogna ricordare che il titolo è salito del 36% circa dal 9 gennaio al 6 febbraio, appunto a confermare la buona tendenza del comparto del lusso. Per quanto riguarda il rialzo di oggi, vi sono alcuni giudizi positivi da parte di alcuni analisti del settore in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per l'esercizio in corso. Bisogna inoltre ricordare che lo scorso mese il gruppo aveva annunciato una crescita a doppia cifra delle vendite nel 2011, realizzando nel complesso degli ultimi due anni un aumento del 59,2%, quindi il mercato continua a premiare le azioni della società. Andiamo al terzo grande classificato di questa giornata, Prysmian, più 3,65%. Cosa è successo? Anche qui ci sono giudizi positivi da parte di alcuni operatori che dicono di preferire la società italiana rispetto alla concorrente francese Nexan, e puntano sul miglioramento delle stime per il 2012. Le nuove previsioni tengono conto in particolare del rasserenamento del quadro economico in Stati Uniti e Canada, della prosecuzione degli investimenti di Petrobras e dell'outlook del settore delle comunicazioni, in particolare in America Latina e Australia. Livia, i dati di Eni diffusi questa mattina, peraltro anche con l'erogazione di un dividendo in crescita per gli azionisti. Sì, allora bisogna dire che il titolo stamattina guadagnava oltre l'1%, poi ha limato sul finale e ha perso lo 0,40%. Il gruppo appunto ha chiuso il 2011 con un utile netto di 6,89 miliardi, in crescita del 9% sul 2011, e il consiglio proporrà, appunto come dicevi tu, all'assemblea un dividendo di 1,04 euro per azione, di cui 0,52 già distribuiti. Il mercato però alla fine, sul finale di seduta, ha leggermente limato i miei guadagni e il titolo ne ha risentito. Parmalat più 1,36%, un altro caso del giorno, qua un'altra società sulla quale il mercato scommette sempre per una questione legata al dividendo, ma non solo. Sì, allora, appunto oggi in particolare a trenare le azioni è l'attesa per i conti che verranno approvati il 9 marzo, che dovrebbero essere sopra il consensus, e le buone indicazioni anche provenienti dalla concorrente francese Danone a Parigi. Sono passate, diciamo così, in secondo piano oggi le voci relative a un'uscita dal listino della società e di una supercedola che avevano sostenuto il titolo nei giorni scorsi. L'azionista di riferimento Lactalis peraltro aveva già smentito sia un delisting sia una supercedola. Comunque oggi il titolo ha chiuso ancora in netto rialzo. Dobbiamo salutare Livia Zancaner di Radio Cori del Sole 24 Ore, perché devo andare subito alla riforma del lavoro. Livia, grazie e buona serata. Grazie a voi, buona serata. A presto. Il peggior titolo è stato comunque Mediaset, che ha perso il 2,73% su stime pessimistiche relative alla raccolta pubblicitaria. La riforma del mercato del lavoro, alla quale non possiamo dedicare moltissimi minuti, solamente questi ultimi che ci rimangono prima del termine della prima parte della nostra trasmissione. Chiuso l'incontro fra governo e parti sociali, la prossima riunione lunedì per affrontare il capitolo degli ammortizzatori sociali, un confronto complessivo che si dovrebbe chiudere entro marzo. Nessun out del governo sulla riforma del mercato del lavoro, ha ribadito questa mattina il ministro del welfare Elsa Fornero, ma il tema del riordino dei contratti e delle flessibilità in entrata è subordinato a quello delle flessibilità in uscita. E allora il governo è pronto ad affrontare il tema della flessibilità in uscita nel confronto sulla riforma del mercato del lavoro? Per ultimo, dato che le parti su questo argomento non hanno una convergenza, ha detto il ministro Fornero, che poi ha indicato nell'apprendistato come quella che deve diventare la forma tipica di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani. Il governo ha anche detto, la Fornero punta ad introdurre controlli e sanzioni contro l'uso improprio delle flessibilità nel mercato del lavoro. Secondo Fornero ci sono troppe partite IVA, ma occorre evitare la discontinuità e occorre evitare che migliaia di lavoratori finiscano in nero. Il governo non userà l'accetta per ridurre il numero delle forme contrattuali. E allora sentiamo su queste dichiarazioni il commento di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. La Marcegaglia ha confermato che il ministro ha confermato a sua volta che sul tavolo ci sono tutti gli argomenti, compresa la flessibilità in uscita. Oggi la riunione sulla riforma del mercato del lavoro è andata, diciamo, più nel concreto, quindi abbiamo cominciato a ragionare più concretamente su alcune parti della riforma del mercato del lavoro. Voi sapete che le parti sono varie, le forme di ingresso nel mercato del lavoro, la cattiva flessibilità, gli ammortizzatori sociali e la flessibilità in uscita, compreso l'articolo 18. Oggi abbiamo cominciato a ragionare sulle forme di ingresso nel mercato del lavoro. Noi abbiamo ribadito, e il ministro ci ha confermato questo aspetto, che sul tavolo ci sono tutti questi argomenti, quindi oggi abbiamo affrontato questo, lunedì ne affronteremo un altro, insomma, e via via li affronteremo tutti, compreso, ripeto, la flessibilità in uscita. Siamo tutti qui, noi come associazione di imprese e anche i sindacati, con un grande senso di responsabilità, stiamo lavorando molto, i nostri tecnici si sono incontrati 3 volte in questi giorni, noi ci siamo incontrati ieri sera, ci incontreremo anche nelle prossime ore, quindi siamo tutti molto impegnati, molto interessati a fare una buona riforma del mercato del lavoro. Quindi, come dire, l'esito lo vedremo alla fine, però insomma ci sono i presupposti per fare un ragionamento significativo. Chiaramente, questo l'ho detto all'inizio, l'ha detto Musso, lo ripeto, per noi la riforma è flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita. Sappiamo il tema dell'articolo 18 c'è sul tavolo, ma per noi questo tema non c'è, ha detto invece il leader della CGIL Susanna Camusso, che ha detto: lo sciopero della FIOM conferma la norma incancellabile per noi. Sentiamola. E rispetto allo sciopero della categoria proclamato per il 9 di marzo, vorrei dire che quello sciopero si chiama contratto nazionale di lavoro, si chiama democrazia in Fiat e esclusione delle rappresentanze sindacali della FIOM dagli stabilimenti della Fiat, si chiama lavoratori di Pomigliano che se sono iscritti alla FIOM non vengono richiamati al lavoro, e ribadisce un'opinione che tutta la CGIL ha detto, che è quella che secondo noi l'articolo 18, poi principio di civiltà, norma incancellabile, possiamo usare tanti aggettivi che ci sono stati, quindi ribadisce una posizione rispetto a un dibattito che, devo dire, vedo, continuo a vedere molto vivace in questo paese, che pensa che la soluzione passi tutta dall'articolo 18, se c'è una valutazione positiva di oggi, che invece si comincia a dire che se bisogna discutere di precarietà bisogna discutere delle forme di ingresso e non delle forme di uscita. Adesso, come vi avevamo promesso nella prima parte della trasmissione, vi diamo conto un po' più esaustivo dell'intervento di Mario Monti oggi al Parlamento europeo, che si è riunito in plenaria a Strasburgo. È stato un discorso che è stato anche alcune volte interrotto dagli applausi, quindi segno che naturalmente l'autorevolezza di questo governo viene sempre più confermata ad ogni tavolo, anche se alcuni passaggi delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano sono stati passaggi molto forti, perché Monti ha detto chiaramente che il rischio della disgregazione europea c'è, ma non l'ha detto solo Monti. Pensate che poco fa è arrivata un'agenzia dalla quale leggo che le prime banche e le prime assicurazioni tedesche si starebbero preparando all'eventualità di un crollo dell'euro. Lo scrive oggi il Bild, il tabloid tedesco appunto. I contratti finanziari internazionali prevedono una clausola, spiega il tabloid, aggiuntiva nel caso di un'uscita dall'euro. Si stabilisce ad esempio che l'affare verrà realizzato in euro o nella valuta valida al momento di una transizione della Germania, cita Bild. Per cui, insomma, ma questo comunque lo sapevamo, ci sono stati dei momenti quando lo spread italiano lo scorso autunno, lo ricorderete, era letteralmente esploso alle stelle, in cui, insomma, grandi investitori americani avevano chiaramente simulato nei loro uffici studi anche la circostanza di un fallimento italiano, perché insomma sono cose che si fanno, gli uffici studi di tutte le grandi istituzioni finanziarie prendono in considerazione anche le eventualità più estreme in termini positivi e negativi, e quindi chiaramente in queste ore prendono in considerazione anche lo scenario come dire, più devastante che può arrivare. Noi naturalmente speriamo che questo non si verifichi. Poi sentiremo Vittorio Daroldi in collegamento da Atene con noi, qual è il clima in questo momento nel paese, non certo meteorologico ma politico e sociale. Adesso però andiamo a sentire quello che ha detto oggi Monti a Strasburgo. E allora vi faccio sentire a tamburo battente la raffica delle sue dichiarazioni più importanti, partendo da questa: i sacrifici chiesti agli italiani non sono imposti dall'Europa ma necessari per il miglioramento della vita economica e sociale e civile degli italiani e nell'interesse dei nostri figli. L'Italia ha una materia prima sempre più rara in Europa, un'opinione pubblica favorevole all'Unione Europea. Sentiamo questo primo passaggio del Presidente Monti al Parlamento Europeo. Spiego sempre ai miei concittadini in Parlamento e altrove che i sacrifici importanti, le riforme difficili ai quali i cittadini italiani sono chiamati in questo momento non sono imposti dall'Europa, sono necessari per il miglioramento della vita economica, sociale e civile italiana e soprattutto nell'interesse dei nostri figli, e sono anche cose che l'Europa chiede di fare e raccomanda di fare, ma non devono essere imputate all'Unione Europea. Io sento molto la responsabilità di guidare in questo momento un paese che ha una materia prima sempre più rara nell'Unione Europea, cioè un'opinione pubblica favorevole all'integrazione e alla costruzione europea. Sento il dovere di non dissiparla, ma di coltivarla, questa materia prima, e quindi mi sento di dover praticare con cura questa necessità di persuadere i cittadini, ma sulla base di argomenti di sostanza, e non solo e non tanto sulla base dei vincoli europei. E in ogni occasione che ho invito i miei colleghi di altri governi di Stati membri a usare la stessa attenzione e lo stesso riguardo verso questa nostra fondamentale costruzione comune. L'Italia è impegnata in una complessa corsa per uscire dall'emergenza. Stiamo gradualmente riuscendo a togliere il nostro paese dalla zona d'ombra in cui in qualche momento è stato collocato come fonte, contagio o focolaio della crisi. Ancora Mario Monti. L'Italia in questo momento è impegnata, signor Presidente, onorevoli membri, in una complessa corsa all'uscita dall'emergenza. Credo che stiamo gradualmente riuscendo a togliere il nostro Paese dalla zona d'ombra in cui per qualche momento è stato collocato come possibile fonte di problema, di contagio, di focolaio nella Eurozona. Stiamo compiendo tutti gli sforzi necessari in termini di consolidamento di bilancio e in termini di riforme strutturali. Il governo italiano è determinato ad andare rapidamente al riequilibrio dei conti pubblici. Sentiamo come ha spiegato Monti questo passaggio. Voglio ricordare che l'impegno preso l'estate scorsa dal mio predecessore Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di portare il bilancio dello Stato italiano in pareggio già nel 2013, cioè un paio d'anni prima degli altri Stati dell'Unione Europea, impegno che venne preso in condizioni di emergenza, il mio governo l'ha mantenuto, non ha chiesto di modificare questo impegno, anche se è molto severo e comporterà un avanzo primario del 5% circa del prodotto interno lordo al netto del pagamento degli interessi. Siamo determinati ad andare rapidamente a questo riequilibrio dei conti pubblici e siamo ugualmente determinati con la particolare configurazione di governo e di rapporto con il Parlamento che esiste in questo momento in Italia a compiere molto rapidamente le riforme strutturali che sono necessarie. Vi faccio sentire un ultimo passaggio perché poi questo ci porterà dritti anche ad affrontare novità odierne sulla crisi greca. C'è il rischio di disgregazione dell'Eurozona, ha detto Monti. L'euro è stato il perfezionamento più ambizioso della costruzione comunitaria. Tutto possiamo permettere, meno che diventi un fattore di disgregazione. Sulla soluzione della crisi dell'Eurozona, credo, spero che questa soluzione sia a portata di mano. L'euro è stato il perfezionamento più ambizioso finora della costruzione comunitaria. Tutto possiamo permettere, ma non che diventi un fattore di disgregazione e di separazione tra europei. Questo rischio c'è ed è a portata di mano, credo e spero, e ci impegniamo per questo, la soluzione della crisi dell'Eurozona, ma dobbiamo dedicare altrettanti sforzi, io credo, al recupero di uno spirito unitario di appartenenza ad un unico progetto. La crisi dell'Eurozona ha fatto nascere troppi risentimenti, ha ricreato troppi stereotipi, ha diviso gli europei a seconda delle latitudini, ha diviso gli europei in stati centrali e stati periferici. Tutte queste classificazioni sono da rifiutare decisamente. Vorrei sentire cosa mi può raccontare con informazioni di prima mano Vittorio Darold, inviato ad Atene per il Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera, in effetti la situazione è molto confusa. È arrivata la notizia da Bruxelles di questo tentativo, appunto, di non dare i soldi prima del voto. Questo crea molta incertezza. Samaras, che è uno dei leader di Nuova Democrazia, il partito conservatore, che secondo i sondaggi dovrebbe essere il nuovo primo ministro nelle future elezioni, avrebbe sì fatto una lettera per rassicurare i vari componenti dell'Eurozona, ma molto ambigua. C'è una frase che dice testualmente: ci riserviamo di rinegoziare i termini con politiche adeguate. Questo naturalmente non è piaciuto a Bruxelles perché vuol dire che non ci sono le garanzie di rispettare il patto. Il clima quindi è molto confuso, domani ci sarà anche un comitato centrale del PASOK dove i seguaci di Venizelos, il ministro delle finanze, vorranno mettere sotto controllo, in qualche modo togliere il potere in anticipo a Papandreou. Anche questa è una mossa che non è molto chiara, sembra quasi che ci siano delle forze del paese che vogliono tornare alla dracma e vedono in Papandreou un difensore della linea del rigore e del fatto di restare quindi agganciati all'euro. Questo sembra quindi un momento molto delicato di questo paese, che ha delle forze che vogliono tornare quindi a vecchi sistemi, svalutazioni competitive, tornare quindi a poter magari acquistare a basso costo privatizzazioni con la dracma che costerà molto poco. Vittorio, ti volevo chiedere un'altra cosa, perché questa notizia invece oggi è circolata a Parigi, città dove BNP Paribas ha comunicato i suoi risultati di bilancio, quindi in questo suo impegno istituzionale praticamente ha dovuto far sapere anche questa grande banca francese quante svalutazioni dovrà fare, appunto proprio per rinunciare eventualmente agli interessi sul debito greco nel quale ha investito. E lì il numero uno di BNP Paribas, Jean-Laurent Bonafé, avrebbe detto che l'accordo fra lo Stato greco e creditori privati sarebbe stato fatto, però ha anche detto non sta ad una banca commerciale rivelarne i dettagli. Ti risulta? Ci puoi confermare questa notizia? Perché sì, anche quello. Questo vuol dire che BNP Paribas, che ha come copresidente del IFF, cioè questa associazione che racchiude le maggiori banche private che trattano proprio il private sector involvement, cioè lo swap per i grandi creditori, appunto Gelemiere, che è co-presidente insieme a Charles Dallara, in qualche modo è la prova che il piano è già pronto, perché il 50% di perdite facciali dei beni, dei bond greci, vorrebbe dire 100 miliardi di perse, in realtà con i 30 anni di nuove emissioni dei nuovi bond vogliono dire 70-75 perdite del valore complessivo dell'investimento. Quindi la svalutazione di BNP Paribas è la conferma indiretta che il piano è pronto. Manca soltanto il via libera del piano dell'Unione Europea di 130 miliardi, di cui 30 miliardi sono proprio il cosiddetto sweetener, cioè l'addolcitore, il facilitatore che dovrebbe aiutare le banche a spostare con un interesse più basso e rendere lo swap quindi meno impegnativo per il bilancio, certo, delle banche. A questo punto, senza piano, perché il piano non parte, perché c'è questa richiesta di fare le elezioni con Samaras, che chiede di rinegoziare le misure di austerity appena approvate sabato, tutto viene bloccato. Quindi tutto torna ancora in mano alla questione greca, alla questione di questa classe politica che non ha ancora deciso se restare nell'euro o uscirne. Allora, io volevo anche ricordare che chiaramente gli step prossimi a questo punto verranno seguiti con una certa ossessione da parte di tutti quanti, soprattutto delle autorità di Bruxelles naturalmente. Vorrei ricordare che se davvero passasse l'idea che il pacchetto di aiuti debba arrivare dopo le elezioni, qua non saranno rimborsati i primi bond greci in scadenza, parliamo di qualcosa come 14 miliardi e mezzo di euro, e questo avrebbe già un primo impatto devastante, Vittorio. Esattamente, perché il 20 marzo scadono 14,5 miliardi di bond. Nelle casse dello Stato greco ci sono 11 miliardi di bond, per pagare però pensioni e salari nello stesso tempo. Questa è una situazione veramente drammatica. Potrebbero anticipare il primo piano di aiuti, che come sapete è stato in qualche modo congelato alla sesta tranche. Si potrebbe andare avanti anche con il PSI, quindi dividere il PSI dal trattamento, dal salvataggio con il secondo piano, ma sono tutte ipotesi che stiamo facendo in questo momento. La realtà è che se non ci sono i primi 30 miliardi, il PSI non arriva e Atene non sa come pagare i bond. Allora, intanto oggi, tra le altre notizie da commentare, qui chiaramente la ridda continua, ce n'è una molto importante che è stata divulgata da Financial Times, che ha fatto proprio l'elenco dei tre paesi che sono assolutamente, piuttosto chiaramente anche contrari ad una permanenza della Grecia nell'Eurozona. E poi un'altra notizia, sempre di fonte tedesca, l'avrebbe appunto diramata il Bild, secondo la quale le prime banche, le prime assicurazioni tedesche ormai si preparano in maniera piuttosto conclamata all'eventualità di un crollo dell'euro. Queste notizie sono arrivate ad Atene con che impatto, Vittorio? Perché qua comunque non è che sono nuove, perché che io dicevo prima che le grandi istituzioni finanziarie mondiali abbiano disegnato anche tra i loro uffici studi gli scenari peggiori. È un lavoro anche di prassi che si fa, no? E chiaramente in queste ore un po' queste simulazioni rinfrescano, se vogliamo, anche con le ultime notizie. Ti risultano anche queste notizie, appunto, che ho appena dato? Sì, si sono riuniti i due comitati centrali dei due maggiori partiti, PASOK e Neodemocrazia, per valutare anche queste notizie, questi rumors che appunto giungevano, chiedevano in modo, diciamo, ufficioso una smentita da parte di Bruxelles di questi rumors, ma che non sono ancora arrivati, e questo stanno mettendo sotto pressione la classe politica greca, che naturalmente si trova in un grave imbarazzo, perché a questo punto ha capito che deve in qualche modo dire che le elezioni non si fanno più, ma naturalmente deve trovare adesso un motivo per salvare anche la faccia. E intanto, a proposito di salvare la faccia, il presidente greco oggi, Papoulias, ha fatto sapere che rinuncerà al suo stipendio. La prende un po' tardi questa decisione, non so quanto risparmio porterà questa sua decisione alle casse pubbliche greche, ma in ogni caso, per far fronte e dare un segnale rispetto alla grave situazione appunto generale, il presidente ha detto: rinuncio al mio stipendio. Sono stati contenti ad Atene, Vittorio? Non c'è stato nessun interesse degno di nota, perché i 280.000 euro del presidente non sono passati del tutto inosservati. La gente è veramente preoccupata delle file, che sono sempre maggiori nei due posti più importanti dove ci sono le mense pubbliche che offrono pasti caldi, in via Sofocleo e in via Pireus. Si fa sempre più lunga la fila di gente che va a chiedere questi pasti, la gente è preoccupata per la propria esistenza quotidiana, i tagli ai salari e alle pensioni stanno mordendo proprio la vita di tutti i giorni, e quindi la gente è preoccupata del suo futuro, e di questi gesti, diciamo, molto in ritardo, non danno nemmeno molta attenzione. E d'altronde, quando c'è tutto questo terremolla anche di notizie di indecisione, ci preoccupiamo solo noi, non solamente la Grecia. Grazie Vittorio D'Arold, buon lavoro Vittorio d'Atene. Buona serata, e noi stiamo andando verso la conclusione anche di questa serata di Focus Economia. Io vi saluto, ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorti in assistenza tecnica. Noi ci sentiamo domani con Salva Danaio alle 12, saremo in diretta dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.